Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Lauro Venturi. Buonasera. Lauro Venturi è responsabile della CNA, della Confederazione degli Artigiani di Milano, Monza e Brianza, e ha scritto un ebook, un libro elettronico, si chiama PMI verso il XXI secolo. Ecco, Lauro Venturi, come mai un libro elettronico da un artigiano? Beh, intanto la domanda è molto bella, sa che oggi parliamo di maker, quindi parliamo di unione tra la creatività, il design tipicamente dell'artigiano e la tecnologia, quindi assolutamente l'artigiano del XXI secolo è totalmente compatibile con la tecnologia. E poi un ebook perché le tendenze sulla lettura, io devo dire, ahimè, essendo un vecchio amante dei libri di carta, però le tendenze vanno in un altro senso e quindi conviene adeguarsi. Quindi è un ebook che si può trovare normalmente sui siti di editoria elettronica, PMI verso il XXI secolo, si guarda al mondo delle piccole imprese con uno sguardo affettuoso. Cosa vuol dire? Ecco, esatto, il sottotitolo credo che contenga l'anima di quel libro, che è un instant book, quindi non ha la pretese né di un trattato economico né di un trattato sociologico. È una narrazione di chi come me da 33 anni opera con questo mondo e quindi è una dichiarazione di affetto che però non ha offuscato, io spero, il cervello e fa anche delle analisi sia critiche sia di prospettiva di questo che io considero il tessuto non solo economico ma anche sociale dell'Italia. E com'è cambiato questo mondo, questo tessuto economico in questi 30 anni? È cambiato drammaticamente. Prima di tutto è cambiato per il sentiment che questo paese ha nei confronti delle PMI. Siamo passati da considerarle con uno slogan che era piccolo e bello, l'ossatura, la salvezza del nostro paese, a considerarle un intralcio. Sono troppo piccole per l'internazionalizzazione, sono troppo piccole per la finanza, sono degli evasori e quindi questo cambio proprio di ottica, di sentiment, di anima, ha inciso secondo me anche sull'indebolimento. Oggi c'è meno gente che vuole fare impresa e assistiamo a un dato che è molto pericoloso. Statisticamente il numero degli artigiani delle PMI non è che sia in caduta verticale, se però andiamo a fare una somma, una valutazione qualitativa, vediamo che chi si cancella sono aziende robuste che però non ce la fanno a far fronte a determinate sfide e che si iscrive a un altissimo tasso di precarietà, quindi stiamo impoverendo questo tessuto che, ripeto, è il 95% delle aziende italiane. Ecco, che dovrebbe essere un tessuto che è anche il tessuto su cui puoi far nascere delle imprese artigiane che poi possono diventare piccole e medie imprese e si spera grandi imprese, ma c'è qualcosa che tiene fermo questa dinamica alla crescita in Italia? Il capitalismo, lei riprende un termine di Aldo Bonomi, resta molecolare, resta un capitalismo frammentato. Guardi, quello che abbiamo imparato in questi anni tutti noi che ci occupiamo a vari titoli di economia è che un sistema socio-economico è quello che fa la differenza, quindi io non rivendico solo le aziende piccole, un sistema buono ha aziende piccole, aziende medie, aziende molto grandi, aziende probabilmente anche pubbliche che possono investire in settori il cui ritorno immediato è basso. Purtroppo, lo diciamo con grande rammarico, l'assenza di politiche industriali a misure di piccole e medie imprese adesso ha presentato il conto in questa economia globalizzata. E infatti il libro si conclude dicendo si è solamente impolverato e rattrappito a causa di questa pesante crisi troppo lunga e troppo poco governata, e si parla dell'artigianato e della piccola impresa. Togliere la polvere è un dovere di chi governa e di tutta la classe dirigente, perché rimettere in moto le persone che hanno voglia di lavorare significa costruire le condizioni di un nuovo e possibile progresso economico e sociale delle città e dei territori, e questo diventa fonte di speranza ed esempio per tutti. Abbiamo bisogno di speranza e di esempi, Lauro Venturi. Sì, questa frase mi è nata, io amo anche molto scrivere anche altri libri, mi è nata dopo che avevamo presentato la prima indagine in Italia sull'impatto che la crisi ha avuto non sulle aziende ma sugli imprenditori, quindi la motivazione, la voglia di intraprendere, l'autostima eccetera, ed è uscito un quadro schizofrenico. Da un lato una grandissima sofferenza anche umana e personale e dall'altro però la voglia di non mollare, la voglia di essere ancora capaci di mantenere queste aziende che spesso sono anche un progetto di vita. diciamolo con grande chiarezza, senza un contesto istituzionale, politico, economico di prospettiva e di programmazione, queste piccole imprese rischiano di essere un po' come degli animali molto carini ma in via d'estinzione. E quindi ognuno faccia la sua parte, gli imprenditori, gli artigiani, ma anche la politica deve fare la sua parte. Grazie a Lauro Venturi di essere stato con noi questa sera, abbiamo parlato del suo libro, del suo ebook, libro elettronico, Le piccole e medie imprese verso il XXI secolo, disponibile in tutti i siti di commercio elettronico. Grazie mille Lauro Venturi. Grazie a voi. Eccoci ancora qua, dopo aver parlato con Lauro Venturi delle piccole e medie imprese verso il XXI secolo, parliamo di economia con l'anima con il professor Luigino Bruni. Buonasera professor Bruni. Buonasera, grazie. Economia con l'anima, editrice missionaria italiana, 160 pagine, 12 euro, raccoglie una serie di articoli che il professor Bruni ha scritto in questi ultimi mesi e che hanno come filo conduttore quello di guardare, come dice nella conclusione, con gli occhiali giusti alle vicende economiche. Quali sono questi occhiali, professor Bruni? Ma un occhiale fondamentale è quello del lavoro. Io cerco di raccontare in questo libro, oggi noi continuiamo a guardare il mondo del lavoro con le categorie del Novecento, dove esisteva il conflitto tra i lavoratori e il lavoro e il capitale, dove la fabbrica era il luogo del conflitto sociale tra appunto i padroni e i dipendenti, siamo completamente fuori strada. Io cerco di dimostrare che oggi il vero conflitto sociale è tra tutto il lavoro e le rendite. Quindi i lavoratori, gli imprenditori che stanno soffrendo troppo perché le rendite le stanno semplicemente schiacciando. Quindi gli occhiali significa leggere l'economia con del XXI secolo con categorie nuove, ma come sappiamo benissimo dai tempi di Keynes, che diceva che ogni politico si porta in mente il libro di economia che ha studiato 30 anni prima a scuola, quindi c'è sempre uno scarto tra ciò che accade nel mondo e le categorie giuste per leggerle. È molto difficile capire il mondo perché sbagliamo gli occhiali, quindi io cerco di mostrare che per capire e per dare delle ricette alla crisi economica occorre cambiare le categorie economiche che sono ancora troppo ancorate al XX secolo, al mondo preglobalizzato, prefinanziario, e quindi semplicemente non lo si capisce. Un mondo che usa soprattutto lo strumento della finanza, il termometro della finanza per misurare l'andamento dell'economia. Forse bisognerebbe ridare alla finanza lo spazio che le compete, cioè essere a fianco di sostegno all'economia, mentre molto spesso capita il contrario. Sì, capita il contrario perché come spesso accade nella vita che il mezzo diventa il fine, cioè la finanza è fondamentale, è essenziale per qualsiasi progetto imprenditoriale, tutti sappiamo quanto è importante la finanza per l'economia reale e lo è sempre stato. Ad un certo punto per delle scelte anche precise di politica internazionale, di regolazione bancaria, di deregolamentazione di una certa finanza, da questo mezzo fondamentale è diventato fine a se stesso e quindi abbiamo perso di vista il giusto rapporto mezzi-fini. Però al tempo stesso ci sono tante esperienze positive che dicono che qualcosa può cambiare, si sta già cambiando. Io nel libro accenno a crowdfunding, alla grande tradizione del credito sociale, della finanza cooperativa che parte dai Monti di Pietà, dei Francescani, arriva fino ad oggi, speriamo domani. Quindi c'è anche tanto da sperare, non c'è solo una denuncia dei mali della finanza speculativa. E c'è anche una visione dell'economia che è nella tradizione italiana, di un'economia sociale, un'economia più aperta appunto alla società, ai rapporti umani, che non ai rapporti strettamente economici. Sì, noi abbiamo un modello economico italiano che il mondo ci invidia. Io vengo ora da un convegno con degli economisti americani che dicevano: voi avete anche una storia che noi non possiamo comprare, perché la storia ce l'avete o ce l'avete o non ce l'avete, non esiste un mercato della storia, dei secoli. E l'Italia per fortuna ha un mercato che ha almeno 800-900 anni, che nasce nell'umanesimo civile. Quindi abbiamo un modello dove l'economia e il sociale sono molto intrecciati. In Italia il business non è stato mai solo business, è stato anche dono, comunità, reciprocità. Questo modello però si è ammalato ad un certo punto nel suo sviluppo storico e ha prodotto le nostre malattie tipiche che si chiamano femminismo morale, varie forme di mafia, dove una vocazione alla relazione, alla comunità è diventata una nevrosi, cioè una malattia, dove questa relazione è diventata appunto un familismo, una chiusura, però ciò non vuol dire che il modello sia sbagliato. Se noi oggi non siamo capaci, come italiani ed europei, a riscoprire un modello nostro di capitalismo, che non è capitalismo USA di matrice calvinista, ma è un capitalismo comunitario, civile, sociale, e andiamo ad imitare altri modelli, altri umanesimi, saremo sempre destinati al declino. Cioè l'Italia ha un futuro se ritrova le proprie radici di un modo di fare economia più aperto alla comunità, all'inclusione, all'altro, che è tipicamente la nostra storia. Ecco, fare economia anche insegnando o magari reinsegnando l'economia, e il libro si conclude proprio auspicando che ci siano delle scuole popolari di economia per far capire che l'economia è qualcosa che ci riguarda da vicino, ma un'economia che va vista come al servizio della persona, al servizio della crescita sociale, al servizio appunto della comunità, e in questa prospettiva l'economia può essere estremamente, anzi è estremamente utile alla società nel suo complesso. Sì, io termino il libro con questa proposta concreta di scuole popolari. In che senso? Cioè io vedo che oggi il linguaggio economico, le categorie economiche sono le categorie per capire il mondo. Cioè chi oggi non studia economia, non ha una formazione economica sui mercati, sui prezzi, sulla moneta, sulla finanza, fa fatica a capire la democrazia, che si gioca tantissimo su questi territori. Allora io dico, benissimo, studiamo di più economia in tutte le scuole. Io non capisco perché non si debba studiare economia al liceo, ad esempio, al di là dei professori che sono difficili, ma studiamola anche da adulti, facciamo scuole popolari nei luoghi del vivere, nelle comunità, nei varocchi, nei circoli, nei luoghi culturali, perché rimpariamo a parlare economia, perché parlare economia e capire l'economia buona significa oggi capire le scelte politiche e non affidarle semplicemente a degli specialisti, perché l'economia è troppo importante per lasciarla semplicemente agli addetti ai lavori. Dobbiamo occuparcene tutti. Dobbiamo farla tutti quanti, giorno per giorno, con le nostre scelte, con la nostra coscienza. Grazie professor Luigino Bruni di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro Economia con l'anima, editrice missionaria italiana, sono 160 pagine per 12 euro. Grazie e buona serata, grazie anche a Roberto Scartritti in regia e Luca Cremonese in redazione.